Il punto di Stefano Folli. Prima era la guerra alla casta, adesso è la rissa nell'aula del Senato contro la riforma del lavoro. C'è una certa confusione politica nel Movimento 5 Stelle, per non dire di quello che avviene nel Parlamento europeo, dove non sembra che l'alleanza con i nazionalisti inglesi abbia portato molta fortuna. E dunque, in questo clima di incertezza e sostanziale crisi di idee, che l'esercito di Beppe Grillo si prepara alla sua kermesse del Circo Massimo a Roma. Sono lontani i tempi in cui la conquista dell'Italia sembrava a portata di mano. Oggi i sondaggi sono ancora buoni, ma la spinta propulsiva sembra smarrita. In questi mesi il messaggio di Matteo Renzi si è rivelato più solido e accattivante di quello di Grillo, anzi il ridimensionamento dei 5 Stelle è la vera vittoria politica del Presidente del Consiglio, assai più strategica della fiducia scontata ottenuta al Senato sulla riforma del lavoro, con conseguente ovvia sconfitta della minoranza del PD, che però a differenza dei grillini aveva già da anni perso la guerra e anche via via la propria identità.